Ad alta voce, Maria Paiato legge Gli ultimi anni di Clelia Trotti, di Giorgio Bassani. A definire il vasto complesso architettonico del Camposanto Comunale di Ferrara come bello, come talmente bello da risultare addirittura consolante, c'è il rischio, anche da noi, di far nascere in giro le solite risate, gli immancabili gesti di scongiuro sempre pronti, in Italia, ad accogliere qualsiasi discorso che pensi di poter trattare della morte senza deplorarla. Ciò non di meno, una volta pervenuti in fondo a via Borso d'Este, che è un semplice budello di transito perfettamente rettilineo, con le botteghe dei marmisti e dei fiorai raccolte tutte all'inizio e al termine, e soverchiato per quanto è lungo dai ricchi fogliami contrapposti di due grandi parchi privati, la veduta improvvisa della piazza della Certosa e dell'adiacente cimitero dà sempre, inutile negarlo, un'impressione lieta, quasi di festa. Per avere un'idea di che cosa sia Piazza della Certosa, si pensi ad un prato aperto, pressoché vuoto, sparso com'è a distanza di rari monumenti funebri di accattolici illustri del secolo scorso. Una specie di piazza d'armi, insomma. A destra, la scabra facciata incompiuta della chiesa di San Cristoforo, nonché, flettendosi in ampio semicerchio fin sotto le mura urbane, un rosso porticato del primo Cinquecento, contro il quale, certi pomeriggi, il sole batte davvero a gloria. A sinistra, soltanto basse casette di tipo semirustico, soltanto muriccioli delimitanti i grandi orti, di cui ancora adesso questa estrema zona nord della città è abbastanza ricca. Casette e muriccioli che, a differenza di quello che sta loro di contro, non offrono il minimo ostacolo ai lunghi raggi pomeridiani e vespertini della luce solare. Nell'ambito dello spazio compreso fra tali limiti c'è ben poco, ripeto, che parli della morte. Perfino le due coppie di angeli di terracotta che, diritti in cima all'estremità del porticato, sono raffigurati nell'atto di attendere dal cielo il segnale per dar fiato alle lunghe trombe di bronzo che già imboccano, non hanno in fondo nulla di tremendo. Gonfiano a prova le gote rosse, impazienti di suonare, smaniosi di giocare. Da quei quattro ragazzoni robusti, di sicuro del contado ferrarese, nelle cui sembianze l'artista barocco li ha rappresentati. Sarà per la dolcezza serena del luogo, e anche si intende per la sua quasi perfetta e perpetua solitudine. Fatto sta che Piazza della Certosa è sempre stata meta di convegni di innamorati. Dove si va mai a Ferrara, anche oggi, quando si abbia voglia di parlare con una persona un tantino in disparte? In Piazza della Certosa, prima di tutto. Che se la cosa procederà poi per il suo verso, sarà faccenda da niente raggiungere più tardi i vicini bastioni, dove di luoghi riparati dagli occhi indiscreti delle balie, abbastanza assidue anch'essa sull'ora del crepuscolo di Piazza della Certosa, ce n'è quanti se ne vogliono. Mentre, al contrario, se l'idilio non vorrà andare avanti, sarà altrettanto agevole e insieme lontano dall'apparire compromettente il ritorno in compagnia verso il centro della città. Vigeva prima della guerra, vige oggidì, vigerà anche domani. Certo, il campanile della chiesa di San Cristoforo, mozzato a metà altezza da una granata inglese nell'aprile del 45 e sorta di sanguigno troncone rimasto tale e quale, è lì a dire che qualunque garanzia di eterno è illusoria e che perciò anche il messaggio di speranza che sembra esprimersi dal caldo rosseggiare degli intatti portici contro il sole, altro non è che un inganno, un trucco, una menzogna bella e buona. cesserà senza dubbio presto o tardi di esistere, di rasserenare e illudere gli animi di coloro che la contemplano, così come lì presso ha già cessato di esistere il campanile della chiesa di San Cristoforo, anche la snella teoria degli archi che si protendono come due braccia aperte verso la luce. Anche questo finirà una volta o l'altra, come tutto. Ma intanto, a un passo dalle migliaia e migliaia di morti cittadini allineati nel retrostante cimitero, e mentre dura imperterrito sulla vasta area erbosa disseminata qua e là di steli e cippi funerari il pacifico, indifferente armeggio della vita, ben decisa lei a non piantarla, a non arrendersi, quale profezia più di quella che promette l'inevitabile nulla finale sembra destinata a perdersi nell'aria eccitante della sera, ormai prossima, a rimanere inascoltata? L'atmosfera di manifestazione popolare, quasi sportiva, suscitata di colpo in piazza della Certosa da un corteo funebre troppo diverso dai soliti per passare inosservato, corteo che in un pomeriggio d'autunno del 1946 era sbucato da via Borso con tanto di banda in testa, non mancò di attirare prontamente l'attenzione degli abituali frequentatori del luogo, in prevalenza bali e bambini e coppie di innamorati, inducendo le prime, sedute nell'erba accanto alle carrozzine, a levare gli occhi stupiti dal giornale o dal ricamo, i secondi a sospendere di rincorrersi o di giocare con la palla, gli ultimi a sciogliere le mani intrecciate e a staccarsi vivamente l'uno dall'altro. Autunno del 46. La guerra ormai cosa passata. La prima impressione, tuttavia, osservando il funerale che in quel momento faceva il suo ingresso in piazza della Certosa, era d'essere tornati al maggio e al giugno dell'anno precedente, al tempo infuocato della liberazione. Con un soprassalto improvviso del cuore e del sangue, sembrava d'essere stati chiamati ancora una volta ad assistere a uno di quei tipici esami di coscienza collettivi, così frequenti a quell'epoca, attraverso i quali una società vecchia e colpevole tentava disperatamente di rinnovare se stessa. E infatti ci si era appena accorti della selva di bandiere rosse che venivano dietro il feretro e delle decine e decine di cartelli ad esse frammisti con sopra scritto «Gloria eterna a Clelia Trotti» oppure «Onore a Clelia Trotti, martire del socialismo», ovvero «Viva Clelia Trotti, guida eroica della classe operaia», eccetera, e dei barbuti partigiani che l'impugnavano e soprattutto dell'assenza dinanzi al carro di prima classe di preti e chierici, che già lo sguardo correva avanti a raggiungere la meta verso la quale il corteo stava dirigendosi. A una fossa, cioè, scavata nella zona di prato esattamente di fronte al portale d'ingresso della chiesa di San Cristoforo, dove, a parte un protestante inglese morto di malaria nel 17, nessuno era stato sepolto da oltre 50 anni. Se non che, tornando indietro al corteo funebre, la cui testa si trovava ormai a poche decine di metri dall'umile, laica fossa aperta in attesa, altra folla continuava frattanto a uscire da via Borso ininterrottamente. Un occhio appena esercitato si sarebbe subito accorto da un'infinità di particolari quanto la prima impressione di un magico ritorno dell'aria del 45 fosse stata ingannevole. Prendiamo per esempio la banda musicale che, giova precisarlo, procedeva staccata dinanzi al carro e suonava, a tempo ritardato, la marcia funebre di Chopin. Le nuovissime divise, indossate dai suoi componenti, uno dei vanti dell'amministrazione comunista da poco insediata in municipio, avrebbero senza dubbio incantato l'estraneo, l'ignaro, ma non chi, sotto i larghi berretti dalle lucide visiere tipo polizia americana, fosse stato in grado di rintracciare a una le fisionomie bonarie e avvilite degli zelanti vecchioni dell'Orfeonica, chissà dove sfollati invece, poveri diavoli, ai tempi di sparatorie e di agguati seguiti alla rottura del fronte e all'insurrezione popolare. Ma l'accurata messa in scena, così estranea al caos geniale di ogni rivoluzione, risultava, se possibile, ancora più evidente nella schiera compatta di una quindicina di autentiche arzdore della bassa, le quali, recando a coppie grandi corone di garofani e di rose, circondavano da ogni lato il carro funebre a guisa di scorta d'onore. Sarebbero bastati i volti terrei, fortemente segnati dalla stanchezza di queste mature madri di famiglia, tutte coetanee all'incirca di Clelia Trotti, per indovinare di dove venissero e come fossero venute. Convocate a Ferrara fin dai più lontani villaggi della costa adriatica, a Ferrara, sul mezzogiorno, avevano certo trovato chi le aveva rifocillate di pasta asciutta, di una fetta d'arrosto e di un quarto di vino, ma non il necessario riposo. La stessa mente burocratica, che aveva provveduto a una mensa adorna di rosse bandierette di carta, aveva poi disposto implacabile perché subito dopo il pasto le anziane massaie si ripulissero alla meglio della polvere del viaggio e infine indossassero sulle vesti di tutti i giorni una specie di strana tunica, rossa naturalmente, e cosparsa in aggiunta di tante minuscole falci e martello nere. Così abbigliate, adesso figuravano come era stato stabilito che figurassero, quasi sacerdotesse del socialismo. Ma quel loro passo pesante e smarrito, gli sguardi inselvatichiti che giravano attorno, le rivelavano fin troppo chiaramente. E veniva da pensare che la faticosa odissea di cui dall'inizio di quel giorno erano state protagoniste fosse purtroppo ben lungi dal volgere alla fine. Svestite di lì a qualche ora delle tuniche, fatte risalire sulle medesime 3 o 4 macchine che le avevano trasportate in città, soltanto a notte tarda sarebbero state restituite ai loro abituri. E chissà se prima di farle ripartire ci si sarebbe ricordati di metterle a sedere una seconda volta, intorno al tavolo adorno di bandierette. Subito dietro il carro funebre, allineate in varie file nel breve intervallo che si apriva tra il carro stesso e la folla indifferenziata dei portatori di cartelli e di bandiere, seguivano le autorità. Erano socialisti, comunisti, cattolici, liberali, azionisti, repubblicani storici, l'ex direttorio al completo, insomma, dell'ultimo CLN clandestino, ricostruito, per l'occasione, in quasi tutti i suoi membri. Aggiunte e mescolate al gruppo, si notavano alcune altre personalità non strettamente politiche, come ad esempio l'ingegner Cohen, presidente della comunità israelitica, e il sindaco di fresca nomina, la dottoressa Bettitoni. E così, sebbene l'onorevole Mauro Bottecchiari, a Ferrara abitualmente definito il principe del nostro foro, ormai non potesse più dirsi, dopo le recenti elezioni amministrative che avevano visto la vittoria schiacciante dei comunisti, la figura politica più rappresentativa della città, era a lui, alla sua spettinata chioma d'argento, era all'acceso colorito del suo volto aperto, leale, che gli sguardi di tutti correvano in primo luogo. Sì, certo, a questo punto, sul piano della politica vera, l'onorevole Bottecchiari non contava più quasi niente. Un riformista alla Turati, si era cominciato a qualificarlo con ironia da parte comunista. Che figura facevano, però, a confronto col vecchio leone, gli altri componenti dell'ex direttorio dell'ultimo CLN clandestino. A parte il dottor Herzen, il cosiddetto prefetto della liberazione di recente emigrato in Palestina, nessuno mancava. C'era l'avvocato Galassi Tarabini, democristiano, che preoccupato di trovarsi lì al seguito di un funerale puramente civile e per questo motivo girava attorno gli occhi azzurri, slavati, che sembravano sempre in procinto di riempirsi di lacrime, si teneva al fianco di Don Bedogni, dell'Azione Cattolica, il quale, al contrario, in basco e pantaloni, persino in tale circostanza si sforzava di esibire la scioltezza brillante, la disinvoltura tutta spregiudicata e moderna, che nel dopoguerra avevano fatto di lui uno dei più rinomati personaggi pubblici dell'Emilia intera. C'era l'ingegner Sears, del Partito d'Azione, che al solito camminava un poco in disparte e, le piccole mani intrecciate dietro il dorso, sorrideva appena fra sé. C'era il gruppetto dei repubblicani storici, il farmacista Riccoboni, il sarto Squarcia, il dentista Canella. Piuttosto imbarazzati, si vedeva molto bene, ma pur volonterosi di stare al passo. C'era infine Alfio Mori, il federale comunista di Ferrara, piccolo, scuro, occhialuto, con un inizio di sorriso che gli scopriva appena gli incisivi superiori, grandi e bianchissimi. E veniva avanti parlando quieto con Nino Bottecchiari, il giovane e promettente segretario provinciale dell'ANPI. Ebbene, curvi e dimessi come marciavano, ridotti a guardarli a una specie di piccola squadra di nullità, l'onorevole Bottecchiari aveva su di loro la più facile delle vittorie. Soverchiandoli di tutta quanta la testa e volgendo continuamente in giro quella medesima faccia rossa di collera dinanzi alla quale lo stesso Sciagura, il famigerato Sciagura, mandato ad aggredirlo in pieno corso Giovecca nel lontano 22, aveva dovuto battere ignominiosamente in ritirata, nessun dubbio che fosse tornato di nuovo lui, l'avvocato e onorevole Mauro Bottecchiari, poco importa se per un giorno soltanto, il capo riconosciuto e indiscusso dell'antifascismo cittadino. Nulla perciò di più naturale, dopo che il carro funebre si fu arrestato di fianco alla fossa e le arsdore del Delta ne ebbero estratto il feretro di zinco di Clelia Trotti, che fosse proprio lui, l'onorevole Bottecchiari, a muovere per primo verso il catafalco. La solenne traslazione della salma della Trotti, morta nelle carceri di Codigoro 3 anni avanti, durante l'occupazione tedesca, dal cimitero di Codigoro al camposanto comunale di Ferrara, non avrebbe potuto esimerlo dall'assumere quella parte di assoluto rilievo che gli competeva. Toccava al più antico compagno di lotte socialiste di Clelia Trotti aprire la serie delle orazioni commemorative. «Compagni!» gridò l'onorevole Bottecchiari. Un urlo rauco, imperioso, che echeggiò lungamente sotto i portici del Camposanto. «Compagne!» aggiunse in tono più basso, dopo una pausa, come se si preparasse a prendere lo slancio. Cominciò quindi a parlare gesticolando. E le sue parole avrebbero certo raggiunto anche gli angoli più remoti di Piazza della Certosa. Nello sforzo il volto dell'onorevole era diventato di colpo paonazzo. Se proprio in quel momento da via Borso non avesse fatto strepitosa irruzione una motoretta. Una Vespa, una delle prime che si vedessero circolare in città subito dopo la fine della guerra. Il tubo di scappamento della Vespa mancava di silenziatore. Anzi, un vistoso aggeggio di metallo cromato che spiccava in basso sul lato sinistro dello scooter, invece che ad attenuare gli scopi del motore, serviva chiaramente al contrario, a renderli cioè più secchi e fragorosi, più adatti a corrispondere all'inquieta mano adolescente che scattava di continuo a suscitarli. interrotto nel suo slancio oratorio, l'onorevole Bottecchiari tacque. Corrugando le bianche sopracciglia cespugliose, appuntò gli sguardi verso il fondo della piazza. Era presbite e, non distinguendo bene, con un gesto nervoso della grossa mano che sempre gli tremava, si tolse il minuscolo pince-nez. L'immagine lontana di una ragazzetta in vespa, la quale, uscita da via Borso ma ormai rallentando, correva lungo l'arco del portico del Camposanto alle spalle della gente ammassata a semicerchio, fu subito a fuoco. Doveva trattarsi di una ragazza molto giovane di buona famiglia, espressero le labbra dell'onorevole Bottecchiari piegandosi in una smorfia di tristezza. Chi poteva essere, figlia di chi? Diceva anche, col viso diffidente e irritato, come se stesse ricapitolando a uno, mentre considerava la bronzatura di quelle robuste gambe di quindicenne, reduce da almeno 2 mesi di bagni trascorsi dalle parti di Rimini, Riccione, eccetera. La borghesia, già. Passata la burrasca della guerra, riprendeva pronta ogni sua vecchia abitudine. Ricapitolando a uno tutti quanti i nomi delle migliori famiglie borghesi cittadine, nel novero delle quali anche i Bottecchiari erano sempre rientrati. «Che indecenza!» imprecò allora forte, con l'amarezza di chi si sente ferito, incompreso. «Io mi domando», soggiunse, indicando con la mano tesa la giovanissima scooterista, diritta in sella, laggiù, l'esile torso quasi maschile, fasciato da una camicetta di seta nera e un nastro rosso nei capelli. «Io mi domando se si possa essere più maleducati di così!» E la folla, centinaia di facce scandalizzate, girando tutta assieme gli sguardi, si volse lentamente a zittire. «Shh!» La ragazza non intese, o non volle intendere. Sebbene avesse ormai raggiunto il luogo della piazza verso cui era diretta, l'onorevole Bottecchiari, che l'aveva veduta scomparire dietro una siepe più alta di persone issate per meglio assistere alla cerimonia sui paracarri delimitanti il sagrato della chiesa, aveva inutilmente aspettato che ricomparisse più in là, allo scoperto. La ragazza non solo non credette opportuno spegnere il motore, ma anzi, di tanto in tanto, pur se già ferma, continuava imperterrita nel suo gioco di brusche, clamorose accelerazioni. «Fatela smettere, per Dio!» gridò esasperato l'onorevole Bottecchiari. «Shh!» ripeterono in coro con energia gli uomini arrampicati sui paracarri. Nuche che si volgevano, occhi che dall'alto seguivano severi una scena che lui, Bottecchiari, anche alzandosi sulle punte dei piedi, non era assolutamente in grado di scorgere. Ma nessuno che intanto si decidesse a saltar giù, nessuno che allo scopo di porre fine a quello scandalo rischiasse di perdere il suo posto.